Noi e i comunisti, scriveva Barna Occhini, il direttore di Italia e Civiltà, nell'ultimo numero della rivista che reca la data del 17 giugno del 1944, noi e i comunisti concordiamo nel non volere più, né gli uni né gli altri, la vecchia società liberale, borghese, capitalistica. E sappiano anche i Roosevelt, i Churchill e i loro compari, aggiungeva, che quando la vittoria non toccasse al tripartito, i più dei fascisti veri che scampassero al flagello passerebbero al comunismo. Quando Occhini scriveva, si trovava a Firenze, le truppe alleate stavano per entrare in città e lui aveva una fretta del diavolo, fretta che tuttavia gli consentì ugualmente di azzeccarne qualcuna. Come ben documenta Giuseppe Parlato nella Sinistra Fascista, un libro uscito quest'anno, furono in tanti nel movimento sindacale, un po' ovunque, a maggior ragione tra quei professionisti della viltà che sono gli intellettuali, furono in tanti a liberarsi della camicia nera e saltare il fosso, ritrovandosi a guerra finita dall'altra parte. Oltre all'odio per il liberalismo, per la borghesia e per il capitalismo, odio un po' cieco, un po' muto e un po' sordo peraltro, visto che non gli ha mai impedito di fare e gli interessi dei liberali e quelli dei borghesi e quelli dei capitalisti, il fascismo rivoluzionario condivideva con il comunismo anche dell'altro, fra questo altro la concezione del lavoro. Soprattutto con la conclusione della guerra d'Etiopia, scrive Parlato, il lavoro diventò nell'immaginario collettivo del fascismo rivoluzionario il nuovo mito di riferimento. Si riscoprirono, in altre parole, i principi ispiratori del primo fascismo e la figura sorelliana, da Georges Sorel, secondo le tesi di Georges Sorel, del produttore. Sintesi, questo produttore, sintesi ad un tempo tecnica e politica di lavoratore e di imprenditore. Ci fu chi cominciò a parlare del primato della tecnica e chi garantì che, cessando il lavoro di essere una merce e diventando invece l'unico e vero soggetto dell'economia, lo Stato collettivo e totalitario, come lo chiamavano allora, avrebbe portato il proletariato tutto sul medesimo piano delle classi intellettuali e dei detentori degli strumenti della produzione. Gentile provvide al lato filosofico della cosa, sostenendo che conoscere è un fare e il variopinto e sempre disponibile mondo delle arti, letteratura, teatro, pittura, perfino la musica, si convertì alla rappresentazione naturalistica e si diede da fare per valorizzare l'amore per la terra, l'unità spirituale della famiglia, il sentimento della maternità, il senso eroico della vita, unito alla maternità ovviamente, la bellezza di una fede sincera e la forza morale della gioventù nuova. L'analogo cioè di quel realismo socialista che venne imposto nell'Unione Sovietica. Erano i tempi dei quadri di Sironi, di Guttuso, di Messina, di Rosai, delle sculture di Manzù. Ed erano anche i tempi degli scritti di Vittorini, di Pratolini, di Del Buono, di Bilenchi, di Alicata e di Pavese, ovvero sia di coloro che con i loro scritti, pitture o sculture hanno contribuito non poco anche alla cultura di quei tempi successivi nei quali, come mi raccontavano da bambino, avrebbe dovuto essere cambiato tutto. A tal proposito, l'articolo 12 della Costituzione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche del 5 dicembre del 1936 è particolarmente interessante. Vi si dice tra l'altro che il lavoro nell'Unione Sovietica è un dovere e una questione di onore per ogni cittadino atto al lavoro, secondo il principio chi non lavora non mangia. Più tardi, nel progetto di legge sui principi fondamentali della legislazione del lavoro dell'Unione Sovietica e delle Repubbliche Federate, anni dopo, parecchi anni dopo, nel 59, si può comunque venire a sapere che la giornata lavorativa degli operai e degli impiegati dura 7 ore al massimo e la settimana lavorativa dura 40 ore al massimo. Il che, venendo anche a sapere che di regola sono vietati i lavori straordinari, ci documenta come la mistica del lavoro, strada impervia facendo, abbia perso qualche colpo. Non credo che abbia fatto in tempo ad usufruirne Alexei Stakhanov. Lo si ricorda oggi, se non vado errato, nel nome di una città ucraina e nell'uso dell'aggettivo stakhanovista, allorquando si designa qualcuno che sgobba come un dannato. La rogna di Stakhanov fu di ritrovarsi con sana e robusta costituzione, giovane e fiero nei primi anni 30, all'epoca in cui il regime decise di combattere strenuamente quell'egualitarismo che anni prima, forse a causa di uno spiacevole malinteso, aveva spinto le masse popolari alla rivoluzione. L'omologazione del rachitico al forzuto sul luogo di lavoro penalizzava gravemente gli indici di produzione. Stakhanov faceva il minatore ed escogitò, pare, un sistema per estrarre più carbone, tanto carbone. 102 quintali in un giorno, che fu il suo record, accolto dalla comprensibile gioia festosa dei suoi compagni di lavoro che da quel momento in avanti, maledizione, ebbero quella misura come obiettivo delle loro giornate lavorative. Nel battibaleno con cui si diffondono le leggende, la sua fama percorse tutte le repubbliche sovietiche conferendo al suo gesto la dignità di modello ideologico. Erano gli stessi anni 30 in cui il duce qui da noi si toglieva la camicia e affrontava la battaglia del grano. Nelle scuole dei nostri giorni, a est come a ovest, anche se ancora ci si lamenta che le lunghe notti insonni ed ambascia fanno crollare la capacità produttiva del popolo americano, nessuno addita più Stakhanov, ad esempio. Pochi sanno più chi sia e quei pochi se lo tengono per sé come un imbarazzo della memoria. È il momento giusto allora perché il nome si sradichi dal suo contesto originario e ricompaia come metafora criptica, come elemento di un linguaggio segreto alla buona che nel segretare modestamente impolvera di un sottile strato di cultura data per morta e data per irresuscitabile l'immagine di chi in ogni tempo, in ogni paese, di qualsiasi tipo di cultura ha sempre saputo fare a meno. Parlo della polizia. Riferiscono i giornali, infatti, di una complessa e protratta operazione investigativa, in grazia della quale la nostra polizia, dapprima nel novembre dell'anno scorso, aveva assicurato alla giustizia, come dicono gli ottimisti, 6 banditi che, cooperando, avevano portato a compimento 27 rapine nella zona del Milanese. Rapine che da poi, più recentemente, in questi giorni, indagine dopo indagine, erano state portate alla fatidica somma di 33. I reati, lo si sa, come i grassi nei sedentari, tendono ad aumentare con il fermo dei rei. Operazione Stakhanov l'hanno chiamata in codice. Per lo sgomento delle spie, perché chiunque ne fosse venuto a conoscenza sarebbe rimasto in dubbio. Un anno di indagini o 33 rapine. Venato di rimostranza sindacale o di sincera ammirazione per la tenacia dei banditi.